professor Marco Pugliese è un nostro amico da anni, ritorna con argomenti sempre interessanti, con le sue proposte prevalentemente di stampo editario storico, legate anche al territorio. Questa sera il titolo è particolarmente accattivante, l'avete visto, Il sogno imperiale, la Bolzano che non fu. Si accompagna con delle immagini molto suggestive. La biblioteca di solito prepara in accordo con i relatori una sera una bibliografia. Se avete piacere di prendere il vostro qualche libro, chiedere delle informazioni, siamo a disposizione. Abbiamo anche le cartoline delle prossime iniziative. Vi ricordo fra queste il Caffè delle Lingue, martedì 10 maggio. E poi il premio Claudio Augusta, che è un premio che noi dedichiamo ogni anno a giovani laureati che hanno scritto, composto una tesi di ricerca sul territorio, qualunque sia la disciplina, la facoltà. Ecco, noi abbiamo piacere e interesse a recuperare questo materiale perché è sempre attuale, ci dà uno spaccato su quello che è lo stato di avanzamento degli studi, dei lavori, e poi appunto viene corrisposto un premio in denaro. Se conoscete qualcuno che si sta impegnando in questo settore, mandatecelo oppure invitatelo a consultare il sito della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta. Ringrazio tantissimo Marco Pugliese per le sue idee, per le sue proposte sempre innovative e allettanti. Vi auguro una buona serata e vi invito anche a tornare da noi in biblioteca. Grazie mille. Grazie. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Mi sentite se parlo senza microfono? Perché il microfono in questo caso posso anche lasciar perdere. Allora, io ho proposto questo tema, intanto parto dal titolo, la grande Bolzano, l'impero che non fu. Sono partito da questo titolo perché in epoca fascista si era pensato di fare dei lavori urbanistici di un certo livello alla nostra città, e lavori che sono stati iniziati e spesso non finiti, però, perché poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, quindi la situazione poi la conoscete, insomma. E però ci sono stati degli spunti di un certo livello sia durante il fascismo e anche nel periodo precedente. Per paradosso, in quello precedente, proprio a ridosso del fascismo, quindi dal 1895 al 1918, quindi fino a quando Bolzano era in pratica sotto l'impero austro-ungarico. E secondo me ci sono tre personaggi che vale la pena ricordare, ovviamente non sono importanti, però se paragonati ai vari Mussolini o a Piacentini o ad altri architetti, insomma, che lavorarono al progetto di Bolzano, o Tolomei stesso, secondo me vale la pena ricordare Pera Toner, che fu il borgomastro di Bolzano, forse quello che governò più di tutti, e a quel tempo lì non aveva tanti problemi di maggioranze, minoranze, cuginanze, eccetera, poteva tranquillamente fare un po' quel che voleva. E quindi sotto l'impero austro-ungarico Pera Toner, caduto l'impero austro-ungarico fu messo qui un commissario civile, il signor Credaro, che viene spesso sottovalutato, ma in realtà lui dal 19 al 22 lavorò molto bene, contando che eravamo nel 19, nel senso che questo commissario civile cercò di andare incontro alla popolazione di lingua tedesca, quindi addirittura chiamò a rappresentare la popolazione di lingua tedesca da un punto di vista politico, chiamò le persone che si occupavano appunto della rifondazione dei partiti politici nel post guerra, e diciamo che per essere nel 1919 aveva qualche idea abbastanza moderna. E poi vi fu una terza persona, Mastro Mattei, che fu podestà di Bolzano e che ideò la zona industriale. In realtà non la ideò lui, noi facciamo spesso degli errori abbastanza grossolani, nel senso che associamo a un personaggio, a un nome, e un processo storico. l'errore più grosso lo si fa con l'epoca romana, quando si associa, quando si dice ci sono stati 7 re di Roma, no, non ci sono stati 7 re, sono stati 7 periodi storici, ogni periodo storico lo identifichiamo con quel re lì. Anzi, furono pure anni di sconfitte per i romani, perché alcuni re erano etruschi, quindi è uno degli errori che si fa di solito in storia, però è comodo unire il personaggio storico al processo, così ti ricordi, secondo me è abbastanza corretto invece farlo. A Bolzano, chiaramente, quando si parla di storia di un certo periodo o di architettura di un certo periodo, purtroppo si ha una valutazione abbastanza, cioè poco soggettiva, nel senso che i progetti della Bolzano imperiale non furono soltanto fatti durante il fascismo, furono fatti anche e soprattutto durante l'impero austro-ungarico. Quindi quando io ho scritto l'impero che non fu, in realtà l'impero ci fu quando vi fu qui l'impero austro-ungarico, che poi vi fu in parte. Tutte e due le volte io li metto sullo stesso livello, sia gli austro-ungarici sia i fascisti in questo caso, perché da un punto di vista politico fecero la stessa cosa. Per Atonere, infatti, era iscritto ai circoli pangermanisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui sosteneva che la città di Bolzano dovesse diventare ancora più tedesca. La rappresentanza italiana era abbastanza ridotta a fine 800, però comunque non era proprio minima. Quindi lui lavorò moltissimo sul germanizzare la città, che, ripeto, a quel tempo lì non lo si può neanche giudicare. C'erano crescenti movimenti nazionalistici in tutta Europa, quindi lui faceva parte di uno di questi, tutto qua. L'impero austro-ungarico, sapete, in realtà era abbastanza in crisi a inizio Novecento. Lo si dice poco, sui libri c'è scritto poco, si racconta sempre la solita storia della Triplice Alleanza, da un punto di vista storico e di giudizio che tanti miei colleghi insegnanti e professori fanno, nel senso che dicono l'Italia era da una parte. Anche quello è un discorso abbastanza complesso, che io dico sempre di fare da un punto di vista di carteggi, cioè chi si mette a discutere di un fatto storico di tradimento di alleanza nel 2016 deve avere ben chiaro che cosa era il mondo nel 1914. Quindi il discorso dei blocchi eccetera va fatto proprio preso con le pinze, nel senso che l'Austria viene spesso dipinta come uno, cioè sembra che l'Austria fosse dalla parte della ragione, a un certo punto l'Italia sia andata dall'altra parte. In realtà invece è un po' diverso, nel senso che l'Austria aveva nei cassetti i piani di invasione nei nostri riguardi dal 1880 più o meno. Quindi prima di dire insomma dove sta la ragione, bisogna un attimo ragionare. Lo Stato Maggiore austriaco, pensate, che aveva in mente di invadere l'Italia del Nord nel 1908 in occasione del terremoto di Messina. A Messina ci fu un terremoto devastante, addirittura prestarono soccorso delle navi russe che si trovavano in loco, navi mercantili, la marina inglese aiutò molto, tutto il nostro esercito venne spostato al sud perché fu un disastro immane. In Italia di questa cosa se ne parla quasi zero, però fu veramente un disastro immane, cioè la Sicilia fu messa in ginocchio in mezzo sud Italia, perché venne quasi distrutta la città di Messina, quindi sfollati, morti eccetera eccetera, che vennero sfollati con la marina e portati in Calabria. Quindi vi furono proprio degli spostamenti di intere popolazioni, da interi paesi vennero spostati. Non lo dice quasi mai nessuno, ma in Calabria, nella zona di Crotone, ci sono ancora oggi persone che sono lì proprio dal 1908. Quindi con l'esercito italiano completamente dislocato al sud e dislocato a livello strategico, quindi sballato, von Lutz, che era il capo di Stato Maggiore austriaco, gli venne in mente di proporre all'imperatore: ma se noi ne approfittassimo e invadessimo l'Italia del Nord, così gli diamo la zampata finale. Era da un po' che ci stavano pensando. Quindi quando noi, non è che noi non avessimo i servizi segreti, anzi fu un nostro un comandante di marina, sapete che i servizi segreti di solito se ne occupa sempre la marina, che scoprì il carteggio e avvisò i nostri generali, che in realtà però già sapevano. Infatti un generale in particolare aveva predisposto delle difese un po' così diremo oggi alla Carlona, però aveva provato a fare qualcosa perché aveva intuito che oltre confine si erano mossi un po' troppo. Sapete che quando due eserciti sono alleati, adesso lo stanno facendo gli Stati Uniti con la NATO con la Russia, se tu hai degli aeroplani o devi muovere delle truppe, devi sempre avvisare lo stato alleato, dici guarda che potrebbero esserci degli sconfinamenti, noi ci stiamo esercitando, non è niente di aggressivo eccetera. In quel momento l'Austria ci aveva avvisato, aveva detto guardate che stiamo facendo delle grandi manovre, ma tranquilli, noi non ci sono problemi. Invece ci fu un problema, perché furono ammassate delle truppe tutte verso i confini italiani e l'attacco avrebbe dovuto essere ad Asiago, quindi nel 1908. La cosa si ripeté nel 1911 quando vi fu la guerra italo-turca. E proprio a Bolzano venne presa una spia italiana che era qui, perché a Bolzano in quel periodo là vi furono due consigli, li chiameremo di guerra, nel senso che lo Stato Maggiore austriaco si riunì a Bolzano, segretissima questa cosa, quindi venne fuori, sapete perché? Perché la moglie di uno dei generali che era capo dello Stato Maggiore e si confidò con un'altra persona alla Sparkasse qua di Bolzano, disse mio marito mi sa che lo mandano in guerra, io adesso devo spostare i risparmi, e poi di pettegolezzo in pettegolezzo arrivò alla spia italiana che riuscì a portare l'informazione in Trentino, probabilmente Cesare Battisti che lavorava anche come spia, oltre che essere in Parlamento a Vienna, però lavorava anche come spia, lui non faceva solamente giornalista, e lui avvisò immediatamente lo Stato Maggiore italiano. Perché? Perché l'Italia era impegnata nella guerra italo-turca o nella conquista della Libia, è un altro argomento attuale la Libia. Quindi nel 1911 la guerra durò due anni, 11-12, nello stesso momento Mussolini, che è uno dei protagonisti dell'architettura bolzanina, si sdraiava sui binari del treno per non far partire i militari italiani, era ancora socialista, pacifista, e con Nenni finì in galera. Quindi stiamo parlando ancora di un blocco assolutamente storico particolare, quindi Mussolini pacifista, Battisti spia e Bolzano in mezzo a certi incroci che non vengono quasi mai ricordati, e a Bolzano era molto attivo in quel momento lì il borgomastro, che era appunto Perattone, che lavorava in sinergia con l'esercito austriaco, perché a quel tempo i sindaci non erano come adesso, nel senso che se c'era qualcosa che non funzionava immediatamente venivano avvisate le autorità centrali, non si aspettava. Adesso invece un sindaco più o meno si occupa di tutt'altro. Invece a quel tempo aveva anche una funzione di, diremo, sceriffo, ecco, chiamiamola così. Perattone, che in quel periodo là non è che fece tutte cose belle, fece delle cose carine a livello architettonico, e soprattutto la nostra città entrò proprio a piedi uniti nella Belle Époque. Fu una città che in Europa, attenzione, non in Italia, in Europa, ebbe un 75% in più di opere costruite nel giro di 15 anni, funivie, trenini, quello del Renon per esempio, la vecchia vacca di Caldaro, non si diceva vacca, la locomotiva, il trenino che andava a Caldaro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi palazzi nuovi, Bolzano era stata rivoluzionata da un architetto che si chiamava Altman a fine 800, insomma a metà 800 diciamo, questo architetto aveva reso il centro storico come lo vedete oggi, questi palazzi belli squadrati. Non era tanto distante dall'architettura che poi riprese anche in un certo qual modo Piacentini, perché la moda architettonica, anche questo è un altro fatto, e quando si parla di architettura fascista è un po' errato, nel senso che architettura razionalista, in quel momento anche in Francia gli architetti, non c'era il regime in Francia, ma comunque costruivano su quella falsa riva lì, ampi spazi, spazi aperti, e un ritorno al monumento, quindi un ritorno alla classicità. Nella storia dell'uomo c'è stato varie volte, il Rinascimento italiano si è rifatto all'epoca greca classica, all'epoca romana classica, nessuno si permetteva di dire che uno scultore durante il Rinascimento si rifacesse alla dottrina politica di Cesare o agli Orazi e Curiazi, cioè si andava proprio a prendere semplicemente l'architettura, era un discorso proprio artistico. E gli architetti europei in quegli anni là fecero questo, quindi anche quando si bolla subito tutto senza poi dire in queste ore c'è questo discorso del Mussolini a cavallo che a me lascia perplesso, perché oggettivamente creare degli altari è sempre molto pericoloso, perché si crea un altare, quando proibisci crei l'altare, diventa il mito, come quando i bambini vogliono prendere la marmellata e togliere la marmellata, andranno sempre a cercare la marmellata se non gliela dai mai. Quindi anche queste cose qua, che purtroppo a Bolzano succedono, perché effettivamente il fascismo, una volta al potere, ha creato una situazione di continuo contrasto con la popolazione locale, e nonostante gli accordi internazionali del post 45, adesso io volevo partire da una foto del Virgolo, perché in questi giorni, ok? Da una foto del Virgolo, questa è una foto fatta negli anni 50, prima del 50 però, e già si notano alcune cose, secondo me, in questa foto qua, nel senso che lo sviluppo urbanistico di Bolzano è già abbastanza consistente rispetto a delle cartoline, dei disegni semplici, dei ritratti ritrovati sulla Bolzano del 1860. Ricordiamo che Bolzano nel periodo di fine 800 era Gries per i fatti suoi, il centro storico, Bolzano vero e proprio, tutta la parte di Oltrisarco quasi nulla, cioè non c'era praticamente nulla se non campagna eccetera eccetera, e la stazione, che è stata la prima grande opera, la stazione di Bolzano dei treni, quindi quando è arrivata qui la ferrovia, e poco altro, nel senso che comunque oggettivamente non c'era granché. Era una città di fiera, il foro boario, quindi era qui in centro, addirittura per farvi capire che la vera periferia di Bolzano era in Piazza Verdi, quindi il foro boario era in Piazza Verdi, e la periferia, di solito la fiera dei bovini non la fa in centro, la facevano in Piazza Verdi, nell'odierna Piazza Verdi, quindi significa che quella zona lì non era considerata già periferica. Quindi pensate un po' alla... Bolzano ha una storia molto particolare, anche qui in storia si tende a far partire sempre tutto da Mainardo. No, in realtà parte da prima, ci sono delle interessanti tavole che parlano di una città fondata durante il periodo romano. Sul nome ci sarebbe da aprire un libro, perché il nome era Pons Drusi sulle carte romane. Su quelle tedesche però non si trova Bozen, ma si trova Drusianburg, perché Druso è un conquistatore detto il germanico, quindi un conquistatore che andò poi morì in Germania, quindi il mausoleo di Druso lo troviamo in Germania, quindi l'area tedesca è sempre stata abbastanza attaccata al personaggio, ok? Sarebbe stato il futuro imperatore di Roma, non era un personaggio secondario, scoletto, anche secondario, no, era il figlio di Augusto, adottivo, però lui e Tiberio erano, quindi lui avrebbe dovuto prendere il posto di Tiberio. Tiberio poi ha preso il posto suo perché lui è morto, è caduto a cavallo, si è rotto il femore ed è morto. Quindi la figura storica di Druso poi è stata ripresa durante il fascismo, chiaramente, perché il fascismo si rifaceva alla romanità. Però anche su questi aspetti, che spesso vengono bollati, io consiglio sempre la lettura di un libro come questo, che è di Emilio Gentile, Il culto del Littorio. Allora, quando si parla di fascismo, secondo me bisogna, intanto 90 su 100, io consiglio sempre di leggere autori italiani. Se leggete autori inglesi, si parte sempre solo, ne ho letti un miliardo di libri scritti da inglesi, si parte sempre dal discorso del carnevale. Il carnevale italiano, perché avendo perso noi la guerra veniamo bollati come il carnevale fascista, il carnevale che sarà in Italia dal 22, Mussolini il pagliaccio, poi che si scrivesse le lettere col primo ministro dello storico che scrive è un'altra cosa, che scrivesse sui principali giornali inglesi è tutta un'altra storia, che ovviamente in Inghilterra viene messa in un cantone, perché ricordatevi che il Partito Nazionale Fascista era molto legato alla destra e non solo inglese e a quella americana. Lo stesso Roosevelt infatti apprezzava, anche se era un democratico, apprezzava Mussolini, lo apprezzava senza tanti problemi, addirittura per non farlo entrare in guerra gli scrisse 8 lettere. Lui puntò su una questione di, di religione, ovviamente con Mussolini la religione, specialmente quella cattolica, non funzionava molto, perché lui era uno che proprio non credeva assolutamente, era ateo, poi si è accordato con la Chiesa per motivi politici, però era completamente ateo. Famose le sue frasi durante i comizi: se Dio esiste, mi fulmini adesso. Ai comizi socialisti faceva queste battute. In Svizzera, quando era esule, perché non aveva voluto fare il militare, appunto per non andare in guerra, ed aveva un amante in comune con Lenin. Anche questo viene spesso dimenticato, e lui si confrontò molto con Lenin, e Lenin si confrontò con lui. Infatti il Soviet ha dentro del socialismo italiano anche, quindi in quel periodo là Russia e Italia sono abbastanza vicine, vengono riconosciute, cioè l'Italia fascista sarà il primo stato a riconoscere i Soviet, per farvi capire che c'è un certo intreccio. Poi ci sarà tutta la vulgata dell'anticomunismo in Italia, perché ci sarà ovviamente, però anche lì il discorso da fare è molto secco, e anticomunismo sovietico, il comunismo italiano, addirittura chi ha fondato il Partito Comunista Italiano finisce nel fascismo. Quasi tutti gli esuli italiani a Parigi nel 1936 tentano di ritornare in Italia per dare una mano alla conquista dell'Etiopia. L'opposizione vera e propria non c'è, viene completamente annientata. Nello stesso fascismo cresce l'opposizione. Infatti, quasi tu, Napolitano era un goof, quindi Gioventù Vittoria dell'università. Tutti i più grandi oppositori a Mussolini sono stati creati all'interno del regime fascista. E Bottai, che era una persona, anche se fascista, va riconosciuto, di una intelligenza con un quid in più, come Ugo Ietti, che era un giornalista che creò il fenomeno Montanelli, perché fu lui a scoprire Montanelli, anche lui con un quid in più, Bottai lo aveva fatto apposta, aveva creato una rivista dove i giovani potessero dire anche qualcosa contro il regime, perché sapeva perfettamente che se tu educhi le persone a dire sempre di sì, senza contraddittorio, sempre tutto giusto, Duce ha sempre ragione, prima o poi te le ritrovi contro. Infatti le prime avvisaglie dello stacco tra popolo e regime ci furono nel 42, con i primi scioperi nelle fabbriche. Fino al 42 in Italia più o meno quasi tutti i settori erano abbastanza soddisfatti della politica del regime. Poi la guerra, si sa, la fame, i bombardamenti, le distruzioni, e chiaramente il salto della quaglia, non siamo tutti eroi, lo si fa. Poi è chiaro che con l'8 settembre lì dovevi scegliere: se eri al nord avevi poco da scegliere, o ti arruolavi o finivi in montagna; se eri al sud eri col regno del sud, perché anche lì c'è da dire che chi si è trovato a nord e a sud non è che aveva potuto fare grandi scelte, perché da Brindisi tu eri sotto, chi parla adesso non so se si rende conto che se eri un soldato in licenza a Brindisi tu eri sotto il re. Cosa ti mettevi a fare lì? Nulla, facevi la risalita con gli alleati, non potevi fare granché. Chi era al nord sceglieva, o andava con la... di solito i giovanissimi andavano con i repubblichini, perché poveretti erano giovani e quindi per loro lo Stato era quello. Quelli un po' più anzianotti, che erano stati in guerra, attenzione, che erano stati in guerra, avevano visto certe cose, di solito si buttavano in montagna. Quindi quello è un discorso molto particolare. Anche Bolzano, per esempio, fu investita di Striscio da questo fenomeno, perché le testimonianze sono particolari. Ecco, questo è uno... È un'aquila che si trovava sul ponte Druso, che poi hanno ristrutturato, hanno messo dei braccieri, che quando l'hanno ristrutturato l'hanno capito, volevano defascistizzarlo e ci hanno messo i braccieri, che in pratica è la stessa cosa, tanto voleva rimettere le aquile, oppure non mettere niente, cioè anche queste storture. Ecco, il ponte Druso è importante perché è un ponte costruito durante il fascismo insieme. Si dice Bolzano città dei ponti, praticamente l'hanno costruito tutti i fascisti, i ponti di Bolzano: Ponte Resia, Ponte Roma e il Ponte Druso. Il Ponte Talvera non è stato toccato in epoca fascista. L'idea, vi dico, era quella di creare una specie di isola in mezzo al Talvera, slargare dove adesso ci sono le passeggiate, creare una specie di isola tiberina come quella che c'è a Roma, una roba del genere, però sarebbe stato fatto molto più avanti. E il Ponte Druso è importante perché è un ponte largo, è classica architettura italiana, quindi bello largo, e soprattutto sarebbe dovuto essere il ponte che dava alla nuova città, più che il ponte Talvera, perché la nuova città di Bolzano avrebbe dovuto sorgere nel progetto Grande Bolzano tra Ponte Roma e il Monumento alla Vittoria. Monumento alla Vittoria che ovviamente si chiamava Foro della Vittoria e poi Foro Mussolini si chiamò. In mezzo c'è una colonna, se voi passate al parchetto, che è dedicata ai caduti della guerra in Spagna, eccetera. Quindi quello doveva essere il nuovo centro di Bolzano. Il rione però vicino, e qua sì, l'architettura vi fa capire la politica. In Italia durante il fascismo non avevamo solo Mussolini, c'era anche il re. Si chiama diarchia, che è una forma di governo un po' particolare. C'è il re, ma c'è anche Mussolini. Qualcuno si chiedeva, ma chi è più importante dei due, Mussolini o il re? È un po' uno, un po' l'altro. Allora, Mussolini aveva il suo esercito, il re aveva il suo esercito, e Mussolini aveva il suo inno, e il re aveva il suo inno. Cioè, capite, i carabinieri erano fedeli alla corona, la Guardia Nazionale era fedele a Mussolini. Cioè, in Italia abbiamo spaccato tutto in due. Certi enti, certe cose sono rimaste, ne sono rimaste tantissime, hanno cambiato nome, hanno tolto la F, eccetera eccetera. Quindi eravamo spaccati in due: partito fascista e partito monarchico, perché alla fine era un partito anche quello in realtà. A Bolzano ovviamente i monarchici volevano il loro bel pezzo di città, e Mussolini decise che il rione San Quirino, che al tempo si chiamava rione Venezia, prendesse appunto, fosse il rione dei funzionari di monarchia. Quindi avete notato, se voi notate, quando passate per in Viale Venezia, voi vedete una cosa diversa da questa che vi faccio vedere adesso, che è Corso Libertà, Piazza Mazzini. Questo è un rione monumentale, è il rione monumentale che fa parte del nuovo centro. Questo dovete immaginarlo come centro storico nuovo, il nuovo centro di Bolzano. Ok? Quindi strade larghe, il tram ha fatto arrivare fino a Gries. Ovviamente Gries, che era un paese, viene nel 28 inglobato nella nuova città di Bolzano. Il nome Gries lo usavano tutti, ma ufficialmente era rione Tiberio. Questo chiaramente è per esigenze di regime. Tiberio, anche lui conquistatore della Germania, quindi Pac Tiberio. Ci hanno piazzato ovviamente delle caserme, come il corpo d'armata, come il quarto corpo d'armata è stato piazzato vicino al parco di Branca. Ok? Era una mossa politica. Lì c'era un hotel, quindi non c'erano cose di valore, tra virgolette, è stato piazzato lì, con tutto un gioco architettonico particolare, nel senso che ci sono delle posizioni, ma qua avrei dovuto farvi scarpinare, purtroppo non. E anche con le foto non rende bene perché devi continuamente spostare. Ci sono delle posizioni dove tu dal corpo d'armata vedi il sole che fa un certo gioco e forma una L, poi ti metti dietro il monumento, forma la stessa identica L con il Rosengarten che è rosso e il monumento che è bianco, che sono i colori di Bolzano. Questo l'ha voluto Piacentini, che era un architetto di regime, però era un architetto di un valore micidiale, cioè secondo me chi usa la parola ha sfregiato Bolzano. Sinceramente è meglio che cambi mestiere con l'architettura, che giochi a dadi, perché lui ha invece intanto ha litigato con Mussolini, perché Mussolini avrebbe voluto modificare i portici, tradotto la via dei portici praticamente avrebbe dovuto essere un po' slargata, quindi il danno ci si sarebbe fatto, e lui si è imposto, ha detto di no, ha detto costruiamo dove non c'è praticamente nulla. Adesso nelle foto che abbiamo, che sono miliardi, dell'oltre Talvera non c'era nulla, come a Oltrisarco non c'era nulla, tutta quella zona lì, Ponte Roma, il rione Dux, che sono le vecchie, il rione Littorio, che adesso c'è Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, eccetera eccetera, non esisteva lì, non c'era praticamente nulla, c'era solo qualche naso. E quindi Piacentini da quel punto di vista va ringraziato, nel senso che non è stato un architetto come quello del Führer, dove a Berlino o anche a Roma, che è stato sventrato un quartiere del Settecento per far uscire i fori imperiali, perché lì c'era un bellissimo quartiere, è stato raso al suolo e sono tirate fuori le effigie romane. Quindi Piacentini sì, rifiutò in quel caso tutta la commissione, anche Ettore Sassas che progettò il Lido. In cambio Mussolini però disse: vi faccio fare un po' quello che volete, ma mi dovete mettere dentro la simbologia politica. E allora saltarono fuori delle opere particolari: l'Eurac, che è fatto a forma di L, il Lido, che è fatto a forma di L, e i Giochi delle Luci, che sono fatti a forma di L, e soprattutto anche la pianta di Bolzano avrebbe dovuto essere a forma di aquila. Quindi poi vedrò, ho un'immagine dall'alto, avrebbe dovuto essere a forma di aquila, non di Fascio Vittorio, di aquila. Ok? Quindi queste sono a livello di sogno architettonico degli architetti del regime. Queste cose qui le si trovano in alcuni libri, tra cui questo libro interessante di Ferrandi, dove Ferrandi fa un excursus su Ettore Tolomei. Questo è concentrato su Ettore Tolomei, perché anche Tolomei è un'altra figura che, dici Tolomei, è quello che ha tradotto i nomi dal tedesco, sì, ha fatto un sacco di sciocchezze, però non è che era proprio l'ultimo che passasse per strada. Aveva scritto un prontuario da solo, andandosi a fare le etimologie di tutte le parole della provincia di Bolzano. Alcune, che ne dica qualche glottologo, non sono neanche sbagliate. Quindi lui fece un lavoro chiaro, era un nazionalista, irredentista, e aveva in testa l'Alto Adige italiano, creò lui la parola praticamente Alto Adige, fu lui a coniare questa parola, questo è vero. E io penso che ormai dopo 100 anni, cioè non so, io dico anche Sudtirolo ogni tanto, non è che non lo dica, però per me è Alto Adige, cioè non perché mi piace Tolomei, è Alto Adige. Quindi il nome Bolzano, per esempio, non lo dicono, ma tante volte, ma è stato un suo studio che ha dato là a forse il vero nome. Cioè il nome Bolzano, che deriva da Bolzano barra Bozen, probabilmente deriva da un signore che aveva un podere nella zona di Gries, praticamente, quella zona lì. E Gries, che probabilmente anche quel nome lì deriva da sabbia, era una zona dove c'erano parecchi torrenti, ruscelletti che si andavano a incastrare, quella zona lì era stata data a questo signore che si chiamava Bazium. Quindi Bauzano avrebbe dovuto essere appunto questa zona qui, più periferica, perché la parte centrale in epoca romana era Pons Drusi. Per tanti anni sono andati avanti a dire che non fosse vero, nel senso che la città di Bolzano era semplicemente una piccola stazioncina romana. In realtà invece sappiamo che sotto l'università hanno trovato un sacco di roba, hanno trovato ville a Gries, quindi l'abitato di Bolzano non era così piccolo, e non poteva essere così piccolo, perché a Bolzano e a Trento era a distanza il fiscus, cioè le legioni che andavano poi oltre confine a pagare i legionari che erano impegnati sul confine. Quindi queste zone qua non potevano essere così poco considerate. Infatti nelle valli abbiamo trovato un sacco di cose, anche perché il clima di Bolzano non era tanto dissimile da quello di oggi. Quindi una villettina ad Appiano, hanno trovato la villa, per anni sono andati avanti a dire che non c'era nulla. A San Paolo è stata trovata una villa romana. Appiano poi non può essere un nome casuale, che un generale romano che si chiamasse proprio Appiano e la zona Eppan, eccetera eccetera. Cioè può essere casuale, può non esserlo. Quindi ci sono, secondo me, delle cose da prendere e far capire, come, ripeto, ci sono da far vedere le cose che sono state sbagliate negli anni del fascismo, nel senso che il fascismo chiaramente era una politica aggressiva, una politica di totale, cioè un regime con un dittatore, il dittatore ha la sua immagine e somiglianza a tutto deve essere fatto. Quindi lì c'è anche poco da dire. Ripeto, per fortuna nostra, parlo di in questo momento un attimo in mi trascisco la geopolitica e non l'architettura, per fortuna nostra durante il fascismo è stata ammazzata una persona sola, nel senso Franz Neroffer, durante la famosa marcia su Bolzano, quindi non era neanche ancora, e dopo, pur che la popolazione ha sofferto, ma non è stato deportato nessuno, le opzioni sono state un accordo bislacco tra due regimi di matti, però non è stato ucciso, messo al muro nessuno in quanto sudtirolese. Questo dopo la seconda guerra mondiale De Gasperi lo ha fatto notare più volte nelle trattative, perché oggettivamente con quello che succedeva oltre Alpe, qui a parte i nomi tradotti, chiaramente poi anche, guardate che qui non è che la popolazione locale stesse ferma, erano quasi tutti collaborazionisti con il partito nazista che dava un sacco di soldi e creava humus per andare contro al regime italiano, perché ricordatevi che i due regimi fino al 38 non andavano d'accordo. Mussolini nel 34 disse che uscì dalla conferenza stampa facendo questo gesto, dicendo che a Venezia Hitler si presentò con un soprabito, sembrava veramente una persona incontrata per la strada, Mussolini in uniforme della milizia con tanto di gradi eccetera eccetera, disse ma questo qua è un matto, lo disse proprio ai giornalisti. Quindi eravamo su due piani abbastanza, discorsi contro Hitler, che ricordiamo ci fece le scarpe anche in Etiopia, perché mentre noi eravamo convinti di avere la Germania dalla nostra parte, lui vendeva armi al Negus insieme all'Inghilterra e insieme alla Francia. Quindi c'era tutta una situazione. Mussolini fu anche l'unico che, quando vi furono problemi tra la Germania e i Sudeti, quindi tutta la popolazione slovacca e tutta quella zona dell'Europa centrale che Hitler iniziò ad annettersi, fu l'unico che spostò le divisioni al Brennero, nel senso che disse no, in momenti, non è che magari si vuole prendere anche l'Alto Adige. Quindi veniamo, anche quando arriviamo alle opzioni, noi arriviamo da tutto questo, quindi prendere le opzioni, parlare di Alto Adige in quel momento lì, secondo me è molto riduttivo. Cioè l'Alto Adige divenne una pedina di scambio tra due regimi, e soprattutto di Alto Adige parla Hitler nel Mein Kampf, dove dice quelli sotto il Brennero io non mi voglio inimicare eventuali alleati, e pazienza, c'è lo spartiacque del Brennero e che stiano lì. Cioè in pratica aveva già tagliato i ponti lui, quindi Mussolini l'aveva letto il Mein Kampf, parlava anche in tedesco maluccio, non voleva interpreti, quindi molte trattative, può sembrare strano a chi ascolta, furono fatte Mussolini-Hitler senza interprete e quindi anche con degli errori, e spesso e volentieri poi quando von Ribbentrop andava a riscrivere tutto, che conosceva anche l'italiano, von Ribbentrop andava a infilarci i cavilli. Il patto d'acciaio è la più grande fregatura che potessimo firmare, e l'abbiamo firmata in pompa magna. Proprio non furono lette le clausole segrete, addirittura Ciano non le lesse neanche, pur che era antitedesco. E il patto d'acciaio, per la prima volta, una bozza venne letta a Bolzano. Una bozza di patto d'acciaio, quasi 2 anni e mezzo prima che fosse firmato. A Bolzano, quando vi furono le grandi manovre per l'esercito italiano si preparava per andare in Etiopia. Quindi, come vedete, in storia è un po' tutto relativo. Quando sento discorsi, cosa si è bloccato? Quando sento discorsi assolutistici sono sempre un po' perplesso. Ecco, questa è la GIL, se si apre. Ok, questa è la GIL, come vedete dal fronte, adesso più o meno la struttura è rimasta uguale. L'architetto, se non mi sbaglio, austriaco, che l'aveva ristrutturata negli anni 90, ha fatto anche un buon lavoro, perché comunque ha tenuto l'impianto della struttura, non ha disintegrato nulla, e quindi tutto sommato ne abbiamo una rappresentanza storica abbastanza importante. È il campanile. Il campanile, siccome questa era una casa dedicata alla gioventù italiana del Littorio, quindi ai giovani, il complesso era la GIL, sarebbe questo pezzo qua, l'odierna scuola Leonardo da Vinci barra Don Milani, che ha ancora il frontone con gli alpini, se passate davanti al Lido, il Lido, lo stadio Druso e appunto il teatro eccetera che c'erano nella GIL. Motivo, tutto questo grande complesso che si chiamava appunto GIL, e era destinato ai giovani, al regime, e tutto il fulcro architettonico è in questa torre, che è vuota, non serve a niente. È stata messa lì semplicemente per questa frase di Mussolini: per ogni campanile ne voglio uno anch'io in tutta Italia. Infatti tutte le case Littorie, case del fascio, hanno il campanile vuoto. Dentro a quel campanile non era previsto nulla, però svettava. E il campanile lo vedete dal centro, addirittura se vi mettete sulle passeggiate, vi spostate tutti sull'argine del fiume, vedete il campanile, cioè è stato fatto apposta lì sopra, è stata scelta una zona alta per farlo vedere a tutti, motivo per cui questo pezzo di città diventa abbastanza importante, perché qui c'è il treno che va a Merano, vi ricordate lì c'era il treno, no? Il treno che va a Merano, siamo vicini a Ponte Roma, e a Ponte Roma avrebbe dovuto esserci la nuova stazione dei treni, che non verrà mai costruita perché ci fu la guerra. Però la nuova stazione dei treni, il nuovo centro a Ponte Roma, il rione monarchico, che sarebbe il San Quirino, il centro storico, che avrebbe perso importanza e forse sarebbe stato modificato, però più o meno sarebbe rimasto, avrebbero spostato l'ospedale, anche, era in previsione anche quello, e poi il rione monumentale. Anche il rione monumentale fascista in realtà aveva un sacco di appartamenti dentro, non c'erano uffici del regime, eccetera. Il cinema Corso faceva parte, quello che hanno demolito, sarebbe stata la Casa del Fascio, la prima Casa del Fascio, quindi era anche abbastanza anonima per essere... La seconda Casa del Fascio avrebbe dovuto essere dove adesso c'è il tribunale, motivo per cui chi usciva dalla Casa del Fascio avrebbe dovuto trovarsi davanti Mussolini a cavallo. Per quello è stato messo lì, dopo la guerra, perché ricordate che quel Mussolini lì, durante il fascismo, non c'è mai stato lì. L'hanno messo dopo la guerra. Io sono bolzanino dalla nascita, devo essere sincero, abitavo in via Roen, sono passato, penso, un miliardo di volte, e penso che quel Mussolini l'avevo visto 3 volte nella mia esistenza, cioè non mi diceva nulla. Continuando a montare questa cosa, adesso c'è un sacco di gente che vede e va lì sotto. Quindi magari ci troveremo anche i nostalgici di Predappio prima o poi lì, perché in tutta Italia una figura così è difficile trovarla, quindi diventa l'America. Secondo me proprio gli hanno fatto la pubblicità peggiore, cioè è colpa di Bondi in realtà, perché Bondi, il ministro di Berlusconi, si mise d'accordo con l'SVP per avere un voto in Parlamento, quando stava per cascare Ivano Berlusconi disse: ah, aspettate che depotenziamo un attimo la città di Bolzano, tanto non poteva fare... cioè, tanto la solita cosa all'italiana, no? Proviamo, tanto ci piegheranno 50 anni a fare quelle cose lì. In realtà, avendo a che fare con certi partiti di qua, invece avrebbe Bondi conosceva poco la nostra situazione come tanti nazionali, e quindi l'SOP ne approfittò subito. E poi diventa anche fonte di dibattito abbastanza inutile, con la mole di problemi che ci sono da risolvere, diventa abbastanza inutile andare a litigare per un basso rilievo, dove basta una targa che spieghi che quella cosa è stata fatta in un regime non democratico. Come il Monumento alla Vittoria, hanno fatto quel bel museo, il museo può essere io l'anello, vabbè, lascio perdere il commento, però il museo secondo me è molto bello, ha vinto un premio europeo, è bello, va visitato, è onesto perché spiega tutto, e quindi da visitare. E hanno fatto un bel lavoro, non c'è niente da dire, quando si fanno le cose bene è anche giusto dirlo. Chi l'ha voluto è stato intelligente, perché ha cercato di fare una cosa equa, non il solito giochino teatrino, ma una cosa equa. Il monumento è contestato da quando è stato costruito, praticamente anche lì io credo che sia un discorso storico, nel senso che poi c'è sempre qualcuno che va lì sotto a fare il saluto romano, però ripeto, non ha senso eliminare. Ecco, Gries, volevo farvi vedere, qui è la piazza, è interessante perché Gries è proprio un paesino, si vede ancora adesso, c'è la piazza principale e poi tutte le stradine a raggiera, quindi il classico impianto non italiano, ovviamente, perché è molto austriaca Gries, ricorda molto le città dell'Austria, perché appunto è stato abitato dai primi contadini che arrivarono dal nord Tirolo. Sapete Mainardo quando si è piazzato qua, all'inizio ha fatto lavorare gli autoctoni, che non erano tedeschi, chiaramente erano Trentino, Veneto, Proto, Italici, e questi disgrafinavano un sacco di cose. Siccome non erano dei mezzadri a pagamento, questi lavoravano e lui era sempre in perdita, in continua perdita. E allora a un certo punto si è stancato, ha chiesto al cugino, gli ha detto: non mi puoi mandare qualche bello mezzo servo della gleba? E sono arrivate un sacco di persone dal nord. è andata un po' così nel 1400, non è che non ci sono state, è una questione proprio economica. Lì Bolzano aumentò infatti la popolazione per quello, poi lui demolì le mura, Bolzano diventò una città poi a più di stampo fieristico, eccetera eccetera, fu anche la nostra è una città abbastanza importante, ci fermò Goethe qui, andò a mangiare in centro, e la De Medici si fece costruire il palazzo, lei per esempio la De Medici è una mecenate, perché comunque lei credeva nella cultura, è una donna a quel tempo lì, non era semplice, eppure si fece costruire il palazzo, si inventò lei il discorso del cambio, perché alla fine facevano un po' il baratto, uscivamo da un discorso proprio medievale in queste zone qui. Non dobbiamo pensare al discorso italico, perché in Italia ci sono stati comuni. Ecco, questa è anche una grande differenza di mentalità, la mentalità comunale da quella imperiale. Cioè noi a Bolzano qua l'abbiamo visto, la mentalità italiana è comunale, perché noi abbiamo avuto i comuni. La mentalità tedesca è più imperiale, non per niente i papi con gli imperatori tedeschi hanno sempre dovuto mercanteggiare, il famoso episodio di Canossa, si dice ancora no, vado a Canossa, perché l'imperatore si era inginocchiato, il papa l'aveva fatto aspettare piangente, quindi questo rapporto lo si vede anche nella nostra città. Ecco, io infatti punterei tantissimo, quando anche spiego ai ragazzi, non punto mai io sul discorso delle opzioni, cioè lo faccio dopo quel discorso lì, va storicizzata secondo me proprio, qui non si è mai fatto, è inutile che raccontino, che scrivano, non si è mai fatto, perché uno che non abitava qua mi ha detto tempo fa, però il fascismo aveva vietato la lingua tedesca, è vero, ma non è che nel 1912 qua tu potessi parlare in italiano, sai l'italiano, perché per Atoner, regio decreto scaricabile da tutte le parti, addirittura ha vietato l'italiano come lingua all'opera, al teatro qui, cioè, ha vietato la lingua italiana, cioè anche lui aveva delle idee abbastanza strane. La statua di Walter è una statua palesemente pangermanista, lui ha preso chiamiamolo cantastorie, poeta, anche lì ci sarebbe da scrivere 5-6 libri, lo ha piazzato nella piazza principale, rivolto verso il confine italiano. Sapete che è rivolto verso Trento? Allora, il signor Tambosi, c'è la scuola a Bolzano, il signor Tambosi che era di Trento, ha detto, ah sì? E noi facciamo Dante, rivolto verso nord. Quindi la statua di Dante si guarda con quella di Walter. Anche questa cosa qua, basterebbe una targhetta così, basterebbe scriverlo nei libri di storia, di facendo vedere che la follia è trasversale, perché chiaramente anche il Tambosi, che comunque era una persona, era un sindacalista, socialista, quindi irredentista, patriota, cioè chiamiamolo come volete, e anche lui comunque è cascato nel tranello, poi da lì è diventato irredentista, quindi vedete che per Atoner, facendo così, ha solamente risvegliato anche dei nazionalismi, quindi la patata ce la siamo sempre scambiata, questa è una terra di confine, e chiaramente io avevo letto delle cose assurde, ho letto al museo, poi hanno corretto, avevo letto al museo dei reti che avessero costruito i masi per primi, ecco, quelle, voi che siete giovani lo dico, se qualcuno vi racconta una del genere andate via, perché sono delle fregnacce. Lì al museo io ho portato via la mia classe quel giorno lì, perché ho detto no, davanti a queste stupidaggini, perché veramente i reti non c'entrano nulla con un qualsiasi tipo di popolazione di adesso, sono una popolazione che abbiamo chiamato reti perché Tito Livio, Cassio Dione, che sono tutti autori latini, hanno chiamato reti loro, quindi noi non sappiamo manco come si chiamassero. Stesso discorso del Sud America, gli Olmechi, li chiamiamo Olmechi, i Maya perché li chiamavano gli Olmechi, ma noi gli spagnoli li hanno chiamati Olmechi, non sappiamo come si chiamassero, li abbiamo massacrati, i Romani uguale, sono arrivati qua, hanno fatto un po'... si sono prese qualche divinità come al loro solito, la popolazione di qua si è fusa con quella romana, perché comunque si è fusa, fine del discorso. Qui è stata distante una legione, potete immaginare, tenere qua 1000-2000 legionari, la fusione è automatica, quindi non si dovrebbe nemmeno discutere su queste cose, sono talmente lontane, talmente assurde, che non, secondo me, veramente quando ho letto certe cose mi ci sono rimasto un po'. Per tornare a Peratoner, comunque, da fargli un applauso, perché lui fece costruire la funicolare del Renon, quindi avevamo un trenino che partiva da Piazza Walter e andava fino al Renon. Negli anni 10, averle queste comodità. L'altopiano del Renon, c'è da dire, gli abitanti di Renon erano incavolati neri, perché loro, anche se erano isolati, stavano da Dio. E quindi questa questione della funicolare li aveva fatti impazzire, nel senso che non la volevano, cioè allora avevano la loro bella mulattiera, venivano a Bolzano ogni tanto, facevano il mercato, ma non gliene fregava niente del trenino. Infatti ci furono delle proteste inaudite contro Peratoner, che invece era un modernizzatore, era uno di quelli che diceva no ragazzi, lottaniamo, dai che qua fa schifo, facciamo la funicolare, facciamo là. Infatti fece funicolari, funivie, propose tutto quello che di moderno esisteva, l'illuminazione elettrica per esempio, fu una delle prime città in Europa, sapete che nei film fanno vedere nell'Ottocento passavano ad accendere ogni... Bolzano fu una delle prime che ebbe illuminazione elettrica, per esempio, anche questo viene detto poco. E, come per un lasso di tempo molto lungo fu la città che ebbe il Lido più grande d'Europa, che non è poco per una città che è in mezzo alle Alpi. Adesso io vi faccio vedere ancora delle foto. Ecco, il Lido di Bolzano, questa è la scala a chiocciola, perché anche qui c'è stato, anche il Lido è tutto pieno di simboli politici in realtà, la scala a chiocciola va a riprendere quell'architettura leggera da festa, infatti il balcone era usato per le feste, la corriera partiva da Piazza Walter e arrivava al Lido, c'erano quattro corse, quindi il Lido venne proprio... venne impiantato qua secondo il regime, venne dato agli italiani un piccolo mare, diciamo, ecco, nel ragionamento. Prima del Lido esisteva un'altra struttura nell'epoca di Peratoner, i bagni Gugler, che si trovavano dove adesso c'è il museo, di fronte al museo, sulla passeggiata di Viale Venezia, lì c'erano i bagni Gugler. Erano molto semplici, nel senso che Gugler era un contadino che aveva un bel laghetto dove raccoglieva l'acqua piovana eccetera, e la gente scavalcava e andava a fare il bagno. Allora lui un giorno disse: ma perché non ci guadagno un po', potrei guadagnare qualcosetta, e iniziò a far pagare il biglietto. Addirittura ai bagni Gugler c'erano gli ingressi per le donne e per gli uomini, gli spogliatoi divisi e degli orari in cui potevano andavano solo le donne, la mattina di solito. Cioè lui aveva già ragionato, e poi purtroppo lì però c'erano parecchi incidenti, siccome il laghetto era messo un po' male, lui aveva anche creato delle pedane che poi diventarono dei trampolini, perché poi trampolini in legno, e si ammazzarono parecchie persone, morti annegati, bambini, perché poi c'era gente che scavalcava eccetera. Quindi il fascismo nel 30 decise di eliminare quella struttura che era poi Gugler era anche morto, era stata gestita diciamo dal comune dopo, diventata pubblica, e venne spostato tutto in una zona dove non c'era niente, perché lì non c'era nulla. Quindi Stadio Druso e Lido di Bolzano, che non ha nome, si chiama Lido, non ha mai avuto nome, si è sempre chiamato Lido, anche nel progetto Lido di Bolzano non ho trovato mai nomi, era a forma di L. Infatti adesso un'altra foto, ecco qui vedete che c'è la vasca olimpionica, la vasca che noi si diceva dei mezzani una volta, quindi quella media, e quella dei piccoli, che è questa, e fa la L anche da lontano. Contate che qua il Lido era tutto chiuso chiaramente, quindi era, le vasche sono state costruite a L di Vittorio, ovviamente. Il trampolino, che era uno dei trampolini più moderni d'Europa, forse per un periodo anche il più moderno come struttura, e questa è proprio una struttura classica presa dalla Riviera Romagnola, c'erano già, e qui vedete c'è tutta sabbia, c'era tutta sabbia, all'inizio c'era tutta sabbia, avevo confermato anche da mia nonna che non era mai andata al Lido, ma era andata a un paio di feste di nascosto e mi aveva confermato che c'era 20 anni fa c'era la sabbia. Poi chiaramente per motivo per cui c'era il, vi ricordate, intorno alle vasche c'era il lavapiedi? Ecco, motivo per sciacquarsi i piedi dalla sabbia, non per altro, eh? C'era per sciacquarsi i piedi dalla sabbia. Perché la sabbia? Perché Mussolini era di origine romagnola e quindi andava ripresa un pochino anche la sua regione, le semirurali è la casa di Mussolini, romanzata, nel senso che la sua casa dove è nato non era proprio così, però comunque più o meno ricorda, lui, lo dico qui, era uno scapestrato, nel senso che i primi 3 anni di vita non ha mai, due cose su Mussolini, i primi 3 anni di vita non parlò, pensavano che avesse qualche malattia, invece un dottore capì dagli occhi che avrebbe parlato, in effetti parlò anche troppo e lui praticamente andò a studiare al collegio, la mamma era maestra comunale, perché al tempo i maestri erano assunti dal comune, e lui però già all'elementare aveva avuto dei guai, insomma, eccetera, lo mandarono in collegio a Forlimpopoli. Al collegio venne espulso e poi reintegrato, perché il padre probabilmente gli fece un discorsetto e lo fece reintegrare. Il padre era veramente un fabbro. Benito Mussolini si chiama Benito, non so se qualcuno se lo ricorda, lo sa, per Benito Juarez, che era un sudamericano boliviano super rivoluzionario di estrema sinistra, quindi il nome non è di destra, come sento anche cose strane, cioè è un nome di sinistra perché il padre era un socialista massimalista, quindi una persona che credeva nel socialismo puro, che poi è diventato comunismo, quindi il bene comune, cioè proprio una cosa di Mussolini, che credeva in tutto questo, perché il padre in casa o così, tra lui e Arnaldo, botte, eccetera, al collegio, diremo oggi in seconda magistrale, in un tema, un suo compagno si definì socialista, però il compagno era figlio di un professore, e lui gli diede un pugno, perché praticamente disse: no, tu non sei un vero socialista, perché io sono un socialista massimalista, sono un proletario, tu no, e si azzuffarono, un disastro, e venne espulso Mussolini in quel caso, perché era figlio di povera gente, si disse. Quindi da lì anche capiamo il personaggio, cioè si prese un diploma, che per quel tempo erano 24 lauree, 10 master e 38 scuole di dottorati di adesso, si prese un diploma, provò a insegnare e funzionò male anche lì, perché lui aveva in testa la carriera politica e il giornalismo, anche se a Mussolini bisogna riconoscere, in qualsiasi giornale lui abbia lavorato, le copie le vendeva, era il giornale più venduto. Quando era direttore dell'Avanti, l'Avanti era il giornale più venduto. Andò, fondò il Popolo d'Italia con aiuti americani e inglesi. Cioè, inglesi e americani dissero: l'Italia è meglio che vada in guerra con... Sapete che l'Italia rimase un anno quasi a non sapere bene da che parte andare? Gli inglesi dissero a Mussolini: guarda, se ci dai una mano a far entrare in guerra l'Italia, dalla parte però... dall'altra parte noi ti diamo un po' di soldi, e infatti il Popolo d'Italia fu aperto perché Mussolini ricevette dei bonifici dagli inglesi e americani anche, eh? Quindi come vedete gli incroci ci sono sempre stati, e diventò interventista, perché ricordiamoci che lui partì dicendo che la guerra era sbagliata, nell'arco di 8 mesi diventò interventista, in quel periodo là l'altro interventista famosissimo è Gabriele D'Annunzio, che chiaramente D'Annunzio invece è un altro tipo di personaggio, cioè il cognome, sapete, lui si chiamava Rapagnetta di cognome, prese il cognome dallo zio, che era il cognome, lo zio era effettivamente, aveva qualche soldo in più, aveva sempre avuto il problema del titolo nobiliare, infatti si fece nominare conte di Montenevoso, eccetera eccetera eccetera, a differenza di Mussolini, che ha sempre schifato tutto quello che aveva a che fare con Savoia e con la monarchia. Quando ci fu la proclamazione dell'impero, a Mussolini venne proposto il titolo di principe d'Italia, che lui rifiutò. Ok, due anni dopo invece un signore svedese lo propose al premio Nobel. Nel 1938 Mussolini rischiò di prendere il premio Nobel per la pace. Sarebbe stata perché dopo Monaco era riuscito a mettere d'accordo tutte le anime tedeschi, francesi. Ricordiamoci che nella conferenza 4 di Monaco arrivò il primo ministro inglese Anthony Eden, l'uomo dell'ombrello, aveva sempre un ombrello, e viaggiò in aereo per la prima volta per andare a Monaco. Quindi un personaggio chiuso, conservatore, timido, però che non voleva la guerra, a parole. Il primo ministro francese, che in quell'occasione non se lo filava nessuno, perché la Francia aveva fatto dei passi un po' indietro a livello politico, no? Litigiosi come al solito tra di loro col problema dei partiti, chiaramente una linea veniva data all'esterno e all'interno veniva sfiduciata, quindi i francesi, e Mussolini e Hitler. Quindi Mussolini fu l'unico, cioè Hitler non, praticamente non parlò quasi neanche con gli altri due, parlò solo con Mussolini, che diventò il garante della pace in Europa. Quindi in Svezia dissero, beh, diamogli sto premio. Lui lo rifiutò, perché era il momento del Mussolini guerriero, quindi lui doveva sempre essere... Si arrabbiò tantissimo con Ciano quando tornò da Monaco, passò per Bolzano e ogni stazione d'Italia lo applaudì. E non era una organizzazione, non era stato organizzato dal PNF, anzi il PNF aveva detto alla gente di non andare ad applaudire Mussolini, perché veniva applaudito per la pace. Uno che andava in giro con il pugnale qua, me ne frego, eccetera, boia chi molla, era arrabbiato nero perché voleva imitare Hitler in quel periodo. Cioè, quello che deve far capire anche del personaggio, passatemi il termine che non è da conferenza, dopo il 36 si rimbambì completamente, avevamo un rimbambito, convinto di avere sempre ragione, che non ascoltava nessuno, ascoltava solo se stesso e un po' la moglie. Dobbiamo dire grazie alla moglie per sue certe scelte logiche, tutte le altre, cioè, proprio una cosa, se uno guarda i carteggi, non convocò nemmeno più il consiglio del fascismo a un certo punto, cioè faceva tutto lui. Cesarismo è una malattia, se ne rese conto quando scrisse, lo consiglio a tutti, e scrisse le ultime sue memorie, ne parlò con un giornalista in vari incontri, ed era un anno in prigione, mi sembra che si chiami, e lui racconta tutto il periodo 43, 43 e mezzo, 44, cioè fino all'8 settembre. Sapete che quando il re, in maniera un po' non troppo educata, perché comunque è un re, è in teoria un re che ti accoglie a casa tua e poi ti fa rapire, praticamente non è mai successo nella storia, solo il re d'Italia ha fatto una bassezza incredibile dicendo lei è sotto la mia protezione e poi l'ha fatto arrestare praticamente. Quindi quel discorso lì, Mussolini da lì capisce tanti suoi errori, cioè li aveva capiti un po' prima, però da lì li capisce, e in questo libro, questo mini libro praticamente parla di un suo ritiro, nel senso che lui, se non ci fosse stato, guardate che quando l'ha stato liberato da Hitler, non è stata una liberazione in realtà per tutto il suo staff che era lì con lui e per Ciano, che da lì capite che ministro degli esteri avevamo. Cioè Ciano firmò un ordine del giorno dove sfiduciava il suo capo, quindi in Italia il regime è caduto perché è stato sfiduciato dagli stessi appartenenti al regime, cioè un regime autocratico sfiduciato da chi rappresentava il regime, una cosa di una follia. Dopo, con questa carta in mano, il giorno 9 di settembre il signor Ciano, dopo il 25 luglio, se ne andò in Germania. Invece Dino Grandi, che era un po' più intelligente, se ne andò in Portogallo, perché i gerarchi che erano andati contro Mussolini con quell'ordine del giorno firmarono la loro condanna a morte. Venne ucciso anche il generale De Bono, che ormai era un anziano, valeva veramente come due di picche, ma fu fatto fuori. E Ciano si mise proprio nella bocca del leone, perché andò in Germania, fu protetto dai tedeschi, che lo guardavano come un poveretto, perché è un poveretto, lui, Farinacci, gente non considerata, e Mussolini invece, quando venne liberato dai tedeschi sul Gran Sasso, chiese la pistola, questo è anche un episodio poco conosciuto, chiese la pistola per uccidersi al carabiniere, che si rifiutò di dargliela. Voi mettetevi anche nei panni di quel povero carabiniere, avrà avuto 22 anni, guardia di Mussolini, gli dà la pistola, ancora Mussolini non si sapeva che fine avrebbe fatto, vuoi mai che... Quindi anche qua ci sarebbe, c'è da fare proprio una conferenza anche solo su quell'episodio, che è un episodio da Mille e una notte, gli aglianti, cioè era tutto già predisposto, e se ne occupò un ex caporale diventato capitano, Skorzeny, che era un austriaco di origini polacche, che è un personaggio che poi collaborò sempre con tutti i servizi segreti del mondo e riuscì anche a sopravvivere a tutto, e morì negli anni 70 nel suo letto. E questo signore qua faceva una certa impressione perché aveva una cicatrice, quindi dava l'idea di essere un eroe. In realtà lui organizzò, fu invece il suo attendente a organizzare tutto, lui si fece solo fare, era uno di quelli che si fa le foto col petto in avanti, no? E basta. Però intanto fu lui che si adoperò per la... Quindi questo è, non divago, adesso abbiamo quasi concluso, vi volevo far vedere anche Piazza 4 Novembre, perché questo... se proprio la vogliamo dire tutta, è quasi peggio del Monumento alla Vittoria, nel senso che è proprio un abbraccio, quindi è fatto così, è proprio un abbraccio della nuova città di Bolzano con il regime, cioè il corpo d'armata viene messo in piazza 4 novembre, quindi il giorno della sconfitta dell'Austria praticamente, viene dato intitolato, ed è un abbraccio quindi enorme, un abbraccio enorme alla città di Bolzano. Quindi a livello simbolico questo è peggio del Mussolini a cavallo, perché questo è un edificio che non c'entra quasi nulla con tutta l'architettura. Chiaro, il Monumento alla Vittoria anche, perché è un arco romano stilizzato, sapete che c'è la freccia che va verso l'Austria, c'è la Vittoria che stocca la freccia, e la freccia va verso il confine austriaco, a dimostrazione che abbiamo vinto, ecco, diciamo, è una questione simbolica. La scritta la conoscono tutti, abbiamo portato eccetera eccetera la civiltà, fu scritta da un latinista che però non era d'accordo sul metterla sul frontone, ci furono mesi di discussioni perché a Mussolini venne detto non esagerare, perché possono venire fuori guai con la popolazione locale, cioè non possiamo esagerare, anche perché c'erano le potenze straniere che proprio non è che stavano a guardare, l'Italia aveva vinto la guerra, non è che potevi fare quello che volevi. E fu purtroppo un'idea di Tolomei quella, perché Mussolini aveva nominato Tolomei funzionario speciale per l'Alto Adige, perché conosceva la zona solo per quello, e Tolomei aveva queste idee, lui poi la statua di Walter la spostò, il re Laurino anche, perché conosceva la simbologia e quindi mise la sua di simbologia, venne sostituita la sua simbologia, la statua del re Laurino è una statua assurda, cioè praticamente il germanico che sottomette l'italico. Non ci sono altre chiavi di lettura. L'hanno messa davanti al palazzo della provincia, quindi i simboli politici ce li abbiamo ancora oggi, però io personalmente, se qualcuno dicesse di spaccarla, rimuoverla, sarei contrario. Dovrebbero mettere però una targa anche su quella, spiegare che cosa significhi a livello storico, spiegare il monumento è già stato fatto eccetera eccetera, perché smontarla, Walter io lascerei così com'è, tanto lui è un poeta poveretto, lo hanno preso per il bavero, non c'entrava nulla perché era un menestrello, andava di corte in corte, chissà dove è nato. Anche bella l'idea che forse, se anche non fosse di qua, sarebbe anche una cosa carina, perché comunque è una persona multiculturale, quindi secondo me vedete, poi la storia è sempre strana, perché tutti questi ragionamenti e ci siamo noi, no, c'eravate voi, alla fine diventa tutto multiculturale. Adesso poi arrivano anche altre culture e magari un giorno si confronteranno con noi anche su certi aspetti, anche a livello di monumenti, perché chiaramente... E questi architetti furono influenzati da movimenti del tempo, lo stesso Mussolini fu influenzato da fotografie che vide anche di monumenti costruiti in Africa, voglio dire, cioè chi lo sa che un domani un architetto italiano però di origini gli viene in mente un qualcosa della sua origine e lo mette nelle sue opere. Ricordatevi, l'architetto cammina tra i suoi sogni, cioè riesce a camminare sui suoi sogni, dicevano nel Rinascimento. Chi ha coniato la parola Rinascimento diceva: l'architetto l'architettura è la professione più bella. L'architetto cammina sul suo sogno, perché? Perché di notte si sogna l'opera, di giorno la fa costruire e ci cammina sopra, quindi cammina sul suo sogno. Questa è un'immagine, una metafora bellissima, in effetti più dello scrittore, perché lo scrittore scrive ed è il lettore che immagina. Questa È una cosa molto particolare. Per esempio, Piazza Matteotti, che in questi giorni è dibattito, eccetera, doveva essere invece la Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, si chiamava Piazza Vittoria. Matteotti ovviamente era stato ucciso, no, in contesti strani, ucciso da Dumini, che era un delinquente al soldo del partito fascista, anzi neanche del partito, ma della CECA, che era la polizia. Sapete che all'inizio questo fa ridere, all'inizio, cioè fa ridere, è tragico ma fa ridere, perché all'inizio del regime Mussolini aveva una polizia segreta che si chiamava CECA, come quella russa, cioè uguale a quella russa. E questi qua si erano dati questo nome per fare un po' i bulletti. E Dumini, che è l'esecutore materiale del delitto Matteotti, Dumini, delinquente di professione, il classico, sapete quelli che sono al bar con le mani in tasca, che però hanno il coltello facile, che hanno la pistola sempre, bische clandestine, cioè non stiamo parlando di personaggi, assoldato dalle bande fasciste per fare un po' di danni, creare il danno e poi risolverlo. Mussolini risolveva. Nel discorso Matteotti, Mussolini non avrebbe voluto però farlo fuori, perché avrebbe creato un martire, e infatti rischiò di cadere il fascismo per l'omicidio Matteotti. Rischiò, andò a tanto così da cadere il fascismo. La popolazione italiana era tutta con la vedova Matteotti. Addirittura fascisti si misero contro, perché veramente fu una schifezza quella roba lì. E fu un'idea di Dumini per fare colpo sul capo, e soprattutto Mussolini fece il grande errore di dire in Parlamento: per qualcuno ci vorrebbe il piombo. E allora il piombo, la pistola, e a Dumini è venuto in mente: lo ammazzo, gli porto il cadavere. E invece Mussolini in quel caso là ufficialmente, infatti, si dissociò, tutti sapevano che c'era di mezzo lui, e si dissociò, andò anche a parlare con la vedova, parlò con la vedova, alla vedova venne data una pensione per tutto il resto del regime, come alla famiglia di Gramsci, come alla famiglia di Nenni. Cioè queste cose vengono spesso dimenticate, tutti gli oppositori politici di Mussolini, la famiglia però non venne toccata, tranne il suo figlio Benito Albino Mussolini, che fu fatto incarcerare insieme alla madre e considerato pazzo. Lui ebbe, sapete, Mussolini era un donaiolo, aveva avuto questo figlio che all'inizio mantenne, perché lui manteneva per quello, solo che poi a un certo punto la mamma, dato di matto, se la trovava sotto la sede del partito, alla fine l'hanno fatta sparire, perché chiaramente lui aveva sposato formalmente. Era a Trento. Una storia tristissima, perché... sì, esatto, una storia tristissima, questa donna disperata considerata pazza. E invece io ho visto le foto di questo Benito Albino Mussolini, era uguale a Mussolini, quindi Mussolini aveva parecchi figli sparsi in giro, ne aveva parecchi, poi in un... credo anche con la palabra. Certo, certo. Beh, ogni amante probabilmente ha fatto l'uovo, come si dice, quindi. Ecco, poi vi volevo far vedere Piazza Walter, no, non questa però, volevo farvi vedere Piazza Walter nel 1898, che non c'era la statua. Quindi, come vedete, nel 1898 non c'era la statua, era una piazza per il mercato. Punto. Non aveva nessun tipo di valore politico, eccetera. Fu Peratoner che ebbe l'idea di metterci la piazza, piazza Franz Kaiser, eccetera. Ci mettiamo una bella statua. Lui scelse Walter perché Goethe non glielo fecero mettere. Lui avrebbe voluto mettere alcuni, non glielo fecero mettere perché era veramente una cosa tirata per i capelli, cioè un personaggio che con Bolzano non aveva niente a che fare, e quindi lui scelse un personaggio minore che diventò però importante. Ripeto, la storia di Walter si sa pochissimo, probabilmente era si dice un trovatore, nel senso che lui girava di corte in corte, no? E sapeva magari suonare anche qualche strumento. Piazza Giovanni, esatto. Esatto, poi l'ha iniziata all'imperatore, poi a Walter, poi al re Vittorio Emanuele, e poi avrebbe dovuto essere titolata a Druso. La statua di Druso fu fatta costruire, e quindi fatta forgiare, scusate, a Roma, ma venne distrutta in un bombardamento e non arrivò mai a Bolzano. Quindi anche qua il destino, la storia sembra fatta apposta. Mi sembra che qua ci fosse un'immagine della statua di Druso. Ah, la statua del re Laurino venne distrutta varie volte dai fascisti, venne fatta saltare per aria varie volte da Tolomei, che pagò dei ragazzi giovani. Eccola qua, questa è la statua di Druso, Druso il Germanico, e venne praticamente presa e fu fatta uguale a una statua che c'è a Roma nel mausoleo, nel vecchio mausoleo di Augusto. Mentre il corpo d'armata è Giulio Cesare. Il corpo d'armata è Giulio Cesare, sì. Sì, il fascismo si rifà, ripeto, questo libro qua lo spiega molto bene, due cose poi ho concluso. Il fascismo si rifà tantissimo alla romanità, ma non è un'idea del fascismo. La romanità rientra in Italia, parte il Rinascimento col Risorgimento, quindi il Risorgimento italiano anche nell'inno, cioè se si studiasse l'inno si capirebbero tante cose. Balilla non è una parola, balilla sapete è una parola genovese, il balilla è dentro nell'inno nazionale italiano, perché il balilla di Genova tirò un sasso a, fu praticamente l'episodio Genova insorse contro gli austriaci, ma tutti avevano paura di fare la prima mossa, allora gli austriaci piazzarono gli obici, questo è un mito, un ragazzino in età balilla, cioè di 8 anni, prese un sasso, lo tirò contro gli austriaci, si voltò verso la cittadinanza genovese, che sapete sono un po' tirchiotti e sempre non decisionisti, disse in dialetto genovese: iniziamo? Ecco perché il balilla venne preso poi dal re del Risorgimento, perché è il coraggio. Il balilla probabilmente è il Muzio Scevola, sapete chi era Muzio Scevola? Quello della mano, no? Ecco, Muzio Scevola è l'esempio concreto dell'eroe senza macchia, dell'eroe degli sconfitti, perché i popoli che hanno gli eroi sono quelli che perdono, non sono quelli che vincono. Infatti spartani, persiani, hanno vinto i persiani, però, cioè hanno vinto, non hanno conquistato la Grecia, però comunque la guerra l'hanno vinta i persiani. E noi ricordiamo Leonida con i 300, che non erano 300 ma erano 300 per 150, se vogliamo proprio essere precisi, perché Leonida è passato alla storia perché lui era il re con i 300 spartiati, cioè con 300 comandanti di altre 150 persone, quindi è 300 per 150 se vogliamo fare i conti. Poi hanno fatto il film eccetera, quindi è nell'immaginario, ma lo storico che ha scritto queste cose ha scritto 300, però ha scritto, però è stato furbo, ha detto aspetta che scrivo 300 spartiati, che magari qualcuno poi confonde, in effetti hanno confuso tutti, quindi 300, valorose eccetera. Quindi nella storia ci sono questi aneddoti che andrebbero raccontati più spesso per far capire che la storia la scrive chi perde, chi vince, a seconda di... I romani hanno preso delle batoste all'inizio della loro avventura dagli etruschi, allora si sono inventati Muzio Scevola, Orazio e Curiazi, Metello che sconfì, Metello è quello famoso per la spada, i Galli conquistano Roma, a un certo punto Metello spunta dal nulla, i Galli mettono una bella bilancia in piazza nel foro e dicono adesso mettiamo qua il nostro peso e di qua vogliamo un corrispondente in oro, se no disintegriamo la città. E tutti i romani in fila, a un certo punto arriva Metello, non si sa da dove, butta la spada sulla bilancia e dice questo è l'unico metallo che vi meritate, e i Galli scappano. In realtà non è andata così, nel senso che i Galli avevano legnato i romani in varie zone d'Italia, a Roma erano arrivati e poi nella risalita è spuntato Metello e gli ha corso dietro, però non ha mai guerreggiato. C'era il casco comandante che diceva vabbè, però se aspetto un attimo mando l'avanguardia, ma no, aspettiamo un attimo. Quando poi i Galli se ne sono andati perché non erano organizzati, ha fatto scrivere che ha vinto la battaglia. Quindi poi ci sono stati anche i valorosi come Scipione, che è nel nostro inno nazionale, però Scipione l'africano che ha vinto eccetera aveva sempre dietro un giornalista che gli diceva ricordati di scrivere che Annibale è un grandissimo generale, e quello scriveva, ricordati di dire che però io l'ho battuto, cioè lui era, lo prendevano in giro a Roma per questa cosa, lui fece scrivere 8 libri su Annibale, 8, e lo prendevano in giro, come prendevano in giro Cesare, che era, si grattava così perché era pelato, eccetera, eccetera. Sono tutte delle cose che era stato rapito dai pirati e si era messo a discutere anche con i pirati, perché gli avevano chiesto un riscatto troppo basso, dicendo io sono Giulio Cesare, chiedete così poco, vi faccio impiccare tutti, e effettivamente poi andò così, perché poi Cesare non era uno, però era un politico moderno, cioè i romani secondo me, io lo dico sempre a scuola, finite coi greci, poi parlate dei romani, perché i romani sono moderni, la mentalità romana era talmente avanti rispetto a certe popolazioni che purtroppo, per quello che quando sentivo qua parlare di reti, ho stato a una mostra, romani e barbari, romani e germani, mi è venuto a ridere, perché i germani non erano nemmeno una popolazione, era una costellazione di popolazioni, quindi sì, è proprio tirare per i capelli, ma proprio strapparseli. Ecco, il Ponte d'Uso, il Ponte Resia, e questo era il Ponte di Sant'Antonio, volevo farvelo vedere. No, per capire che, insomma, quando qualcuno dice ho trovato una città di mattoni, ve l'ho ridata di marmo, effettivamente quando è arrivato qualcuno qua era così la situazione, non è che era proprio diversa. Quel qualcuno è Augusto, che disse, io ho scritto un articolo, Bolzano città augustea, perché Mussolini riandò a prendere pezzi d'architettura romana, quello è vero. Però bisognerebbe fare un giro storico, lo volevo fare più avanti, un giro storico della città di Bolzano e spiegare alcune cose. Perché chiaramente, stando anche qua con le foto, e il discorso dell'architettura, le trabeazioni del monumento non si riescono a far vedere, perché cioè, hai solo un'immagine di una certa angolatura. Quindi. E, ecco, l'ultima cosa che vi faccio vedere è Viale Venezia, nel 29. E come vedete sono casettine, Rione Venezia, quindi questi sono stati architetti che hanno puntato solamente sulla casettina, cioè i monarchici sono monarchici, cioè dovete pensare al circolo del golf, cioè sono persone insomma che stanno con lo stivale lucido e che aspettano tranquillamente che cali il sole per raccontare che sono stati al circolo, quindi non possono stare dentro a un monumento bianco, devono stare dentro alla casettina con tutti i servi che vanno lì a dire quanto sono belli e bravi. Quindi abbiamo proprio nella diarchia italiana, a Bolzano abbiamo, è una delle poche città d'Italia che ha dentro monumentale e chiamiamolo monarchico, quindi quella parte monarchica dell'Italia, perché se andate giù nel meridione trovate molto monarchico e poco monumentale, viceversa dove ha costruito il fascismo trovate il monumentale e non il monarchico. Poi vabbè, negli anni 70 ha rovinato tutto, come a Bolzano, insomma è lo scempio vero, non l'ha fatto il fascismo, l'hanno fatto negli anni 70, hanno demolito i portici, per esempio sono stati rovinati negli anni 70, i negozietti storici disintegrati. Quindi il problema non era neanche Benco, eh. È proprio un discorso molto più complesso che andrebbe fatto, rifatto, strafatto. Scusi, questo quartiere è stato costruito da Vente tra Venezia? Sì, esatto. Per gli impiegati delle esatto. Era un'ente statale? Un ente statale, sì. Con tanto di leone poi incastonato. Si occupava di questo ente statale? Ma si occupava di varie cose in realtà, un po' di il solito. E allora, sì, e diciamo che il fascismo, che se ne dica, ha capito perfettamente l'italiano. Durante il fascismo Mussolini ha governato non coi gerarchi, coi capi caseggiato. Piccolo potere a più persone. Quindi tu eri membro di 3.000 associazioni, membro di 4.000 enti, dipendente di 180 cose e ti sentivi qualcuno, comandavi su qualcuno, lui ha spezzettato, alla fine comandava lui, però ha spezzettato il potere, c'era quello che organizzava il sabato fascista, che non era mai lo stesso, che era il capo caseggiato, e il Rione Littorio, che è quello di Piazza Matteotti, quei grandi caseggiati avevano un responsabile per caseggiato, questo qua non valeva niente, però aveva il telegrafo. Ti. Arrivava dal federale l'ordine, preparare i bambini alla talora, i giovani fascisti alla talora, questi lo facevano nel dopolavoro, eh? Tutto questo veniva fatto, cioè uno usciva dalla fabbrica tante volte, usciva dalla sua occupazione e c'era il capo, alle semirurali c'era il caporione, per esempio, per semirurali, ne faccio vedere una che vi lascio andare. Sì, al Rio del Vittorio c'era il capo casseggiato che era il capo anche che quando suonavano le sirene davanti. Ah certo, che responsabile della sicurezza. Responsabile, perché certo. Che hanno quelle case, hanno il cimitero. Esatto, sì. È vero, no, è vero, ma infatti lo spezzettamento mentale era ben corretto dal punto di chi comanda, in questo caso ha tutto sotto controllo. E questa gente era convinta di avere anche un'autonomia decisionale, perché nei bollettini che arrivavano c'erano varie diciture. Quindi un po' come le qua, che potevano armarsi, sì, per difendere i confini. Sì, Sì, diciamo che quello che fa un po' sorridere, cioè questa non è una conferenza militare, però quello che fa un po' sorridere è che il fascismo qui lasciò un'autonomia per avere sotto suo controllo, poi però a livello militare Mussolini, che non capiva nulla perché era un caporale, a livello militare se ne occuparono i militari, ovviamente. Uno dei militari che si occupò di gestire fu anche Badoglio, che non era proprio un fulmine di guerra, perché è il responsabile di Caporetto Badoglio, cioè una delle sconfitte italiane peggiori, perché lui, siccome lui voleva emergere, ha cambiato il cannone. A un certo punto gli ha dato un ordine e lui ne ha fatto un altro, e non è andato neanche sotto inchiesta per questo, cioè ci ha rimesso un altro, e poi è diventato pure maresciallo d'Italia per la guerra del Chioggia. Quindi proprio la follia, Badoglio, noi siamo entrati nella seconda, io quando penso che siamo entrati nella seconda guerra mondiale con Badoglio come capo di stato maggiore, poveracci i nostri militari, che non erano così male, però lui proprio era, l'altro, Graziani era morto Balbo, abbiamo perso la guerra in Africa, perché Graziani si è fatto scavare una tomba romana a quasi 60 metri sotto il livello del suolo, che era lunga 60 metri, era lì il suo quartier generale, a 350 km dal fronte. Cioè, in una guerra di movimento, perché gli inglesi avevano capito che la guerra nel deserto era come la guerra navale, quindi ci hanno fregato un pochino. Ecco, è arrivato Rommel, immaginate, camicia fuori ordinanza, fularino, occhiali, la volpe del deserto, aveva già vinto di qua e di là. Rommel, Caporetto, è Rommel che ha vinto, perché Rommel era ufficiale dell'esercito tedesco, Strafexpunizione, infatti Badoglio, Rommel, lì Rommel proprio aveva capito che nelle difese italiane c'era un cuneo, c'è entrato, ha fatto un errore però. Non si è portato dietro la logistica, quindi a un certo punto ha iniziato a indietreggiare. Noi siamo rimasti sul Piave, e ho sentito anche dire che l'Italia non abbia mai vinto battaglie sul Piave. Queste cose sono veramente prive di fondamento, cioè a momenti non ha neanche vinto la prima guerra mondiale. In realtà lì a livello militare l'Austria ha fatto proprio un erroraccio. Noi ne abbiamo prese tante di batoste, ma perché avevamo un incompetente, Cadorna contava i morti, diceva abbiamo conquistato 6 metri di terreno, quanti morti? 8.000, beh però 6 metri, siamo andati avanti 3 anni così, cioè i nostri fanti, poveretti, o gli sparavano i carabinieri, o gli sparavano gente che aveva più o meno la vostra età, i ragazzi del 99, prego? Ecco, quindi, bene. A Roma era maggiore che a Caporetto. Sì, a Caporetto era un maggiore, però l'esercito tedesco aveva l'intuizione di dire ai suoi comandanti: se riuscite a gestirvi avete autonomia, se riuscite a portare a casa il risultato potete uscire dall'ordine. E quindi lui in quel caso là si infilò perché vide la prospettiva di vittoria, e fu una sua intuizione, perché lui era uno preparato. Studiava ed anche questo episodio, lui, a parte che venne ucciso perché provò a uccidere Hitler, quando fece i prigionieri inglesi, i suoi sottufficiali gli dissero: ci sono dei neri, dove li metto? Che facciamo? Perché i nazisti, insomma, non è che erano proprio. E lui disse: per me i soldati sono tutti uguali. Cioè, proprio lui era proprio della Wehrmacht, non aveva in testa tutte quelle cavolate di razze e non razze, era un militare, sapeva che avrebbe perso, però ha fatto il suo dovere fino alla fine, secondo me. E anche con gli italiani lui è sempre stato molto, lui diceva che il soldato italiano è ottimo e il comandante che non vale niente. Infatti l'esercito italiano ha sempre avuto quel problema per una questione di carriera, nel senso, tu eri amico dell'amico del tuo amico e diventavi maggiore. Invece dall'altra parte è sul campo, come gli inglesi, promozione sul campo. Noi nella marina abbiamo sempre ragionato così, infatti nella marina le cose sono andate meglio, c'era Rizzo che ha affondato 2-3 corazzate con D'Annunzio, la bella beffa di Bucari che lì militarmente valsa zero ma gli ha lasciato le bottiglie di spumante, ma questa è un'altra conferenza. Io chiudo a margine e dicendovi una cosa se vi può interessare, che a giugno farò una conferenza al Caffè Cristallo, però dove c'è proprio il bar, e sarà sulla letteratura, quindi sulla letteratura, ok? Se seguite sulla biblioteca troverete poi la locandina. Spero di non avervi annoiato, tante foto non ve lo fate vedere, ma ne farò altre 2 quest'anno, quindi spero che non ci siano altre lezioni, perché oggi secondo me tante erano in giro per le lezioni. E niente, se avete delle domande potete farmele, se no io vi congedo volentieri. Gli ufficiali italiani Questa non ha a che fare proprio dal tempo di Napoleone, che facevano carriera l'amico dell'amico. Eh sì, purtroppo allora, quello. È stato Napoleone a dire: no, essere un soldato semplice, però hai testa, ti noccio. Il capitano, no? Esatto. Ancora Napoleone. Esatto. Ma la disfatta è responsabile, è stato Cadorna. Sì, Cadorna. Per il capo di Badoglio. Esatto, sì, però Badoglio ha spostato. No, e lì c'era. Sì, però ha spostato i cannoni. Badoglio ha fatto la propria. Cadorna lì non aveva la colpa. Solo che era il suo capo di Badoglio. Esatto, lui aveva i cannoni. Praticamente gli ha fatto lo scatto. Cadorna si è stato. Scandaloso che ci siamo qui. Fa una domanda? Sì, a me piacerebbe sapere un po' come stavano gli italiani dopo il blocco di settembre del 43. C'è un libro sulla lattuose basta? No, ci sono delle memorie. Se vuole le posso mandare dei titoli alla dove va, dove ci sono dei pezzi sì. Interessanti, magari li mando. Ma cosa appunto non si sente? No, non si. No, ci fu una retata, furono tutti messi in parte dell'Albera, e poi i canti deportati in Germania ci sono comunitari, sì. Però non c'è una cronaca precisa su quel. L'ho cercata anch'io tanto, ma. Peccato, no? Nessuno ci ha mai pensato di scrivere un libro su quel discorso lì. Meriterebbe, in effetti. Sì. Meriterebbe. Sì, sì, sì, sì. Ma sa che l'italiano. Io? Ma... Grazie per la stima. Grazie mille, eh. Grazie per la stima. Arrivederci.